Focus Economia. Sette minuti, buon pomeriggio gentili ascoltatori, buon pomeriggio da Alessio Maurizi, eccoci qua per la cronaca della giornata economica, le principali notizie ma anche gli approfondimenti. C'è tanta Fiat sul tavolo naturalmente, con l'annuncio di oggi di una nuova accelerazione nella fusione con Chrysler. Torneremo anche sulle parole del ministro dell'economia Giulio Tremonti, che parla di un carico eccessivo di controlli fiscali soprattutto sulle imprese, affermazioni che potrebbero preannunciano un pacchetto semplificazione di qui a maggio. Cercheremo di capire di che si tratta. 349-238-6666 come sempre il numero per i vostri messaggi. Un breve sguardo all'andamento della borsa, su cui come sapete torneremo come sempre nel corso del programma più avanti con gli approfondimenti, grazie ai colleghi della redazione di Radio Coro, il Sole 24 Ore. In questo momento l'America è in progresso, leggero, più 0,15% il Dow Jones, il Nasdaq più 0,45%, Piazza Affari invece va giù positiva dell'1,4% naturalmente, e le altre piazze europee non hanno indicazioni particolari, sono poco mosse, più 0,4 Parigi, più 0,5 in questo momento Francoforte, quando siamo quasi alla chiusura. 349-238-6666 per i vostri sms, dicevamo, ma adesso cominciamo con le notizie economico-finanziarie della giornata. E cominciamo come sempre con uno sguardo ai mercati delle materie prime. Il petrolio apre in lieve rialzo a New York, con le quotazioni che salgono di 11 centesimi, siamo a $111.62 al barile, lontani dai record di qualche tempo fa, ormai sono 2 anni fa, ma insomma sempre sotto pressione il prezzo del petrolio e le sue ricadute sui carburanti. Per quanto riguarda invece il prezzo dell'oro, c'è un leggero ripiegamento sempre a New York, sotto quota $1.500 l'oncia, per l'esattezza $1.498.90 l'oncia per l'oro a New York. E sul fronte invece dell'economia internazionale ci sono da registrare le nuove stime che riguardano il Giappone, stime di crescita, stime che ripiegano verso il basso per il Giappone, dove tra l'altro oggi c'è stata un'altra violenta scossa di terremoto, scossa di assestamento, ma tra le scosse, tra la paura e soprattutto l'emergenza nucleare, il Giappone sta risentendo veramente molto dal punto di vista della, anche della produzione economica e delle risorse a disposizione nel paese. Secondo l'OCSE la crescita quest'anno sarà dello 0,8%, precedentemente le stime parlavano di un più 1,7%, quindi come vedete c'è quasi un punto di caduta delle stime per il PIL quest'anno, e si tratta di un rallentamento notevole, perché l'anno scorso l'economia giapponese viaggiava un più 3,9%. C'è un côté positivo, se vogliamo, perché proprio la spinta per la ricostruzione economica che si metterà in campo, si sta già mettendo in campo in Giappone, dovrebbe portare, sempre secondo l'OCSE, il Giappone ad un piccolo rimbalzo nel 2012, ad una crescita del 2,3%. E adesso, tanto per tenere sotto controllo anche gli altri paesi, come i paesi cosiddetti emergenti, ma insomma emersi, come il Brasile per esempio, qua c'è stata una crescita del tasso di sconto di un quarto di punto, e viene portato al 12%, pensate, un valore così alto, per frenare l'inflazione, un problema storico, atavico di paesi come il Brasile, inflazione che si mantiene a un livello superiore a quello di tutti gli altri paesi industrializzati ed emergenti. Sempre in tema di tassi, guardando in casa nostra e guardando soprattutto a chi paga i mutui immobiliari, ebbene c'è un nuovo piccolo balzo dell'Euribor a 3 mesi, il tasso che applicano le banche tra di loro, ma sul quale viene preso come riferimento per indicizzare proprio i mutui è salito all'1,356, dall'1,349 di ieri. Poi c'è un altro tema importante che riguarda la Grecia, sarà un tema di approfondimento anche nella seconda parte di Focus Economia. La Grecia, insomma, alle prese con la crisi, con il debito e con voci di una possibile ristrutturazione di questo debito, enorme debito pubblico greco, che voci di ristrutturazione che spingono al rialzo i rendimenti dei titoli di Stato della Grecia. L'interesse sui bond a 2 anni è schizzato oggi al record storico, siamo al 22,41%. Per quanto riguarda invece i titoli a 10 anni, il rendimento è salito quasi al 15%, siamo al 14,92% per quanto riguarda i bond greci. E la forbice tra il bond greco a 10 anni e il corrispettivo Bund tedesco si è allargata a 1159 punti base, numeri che insomma cominciano e sono ancora più che all'inizio considerevoli, insomma. E va bene, adesso addentriamoci nel quadro delle notizie economiche che riguardano invece l'Italia. Dicevamo le parole del ministro dell'economia Giulio Tremonti, che ha parlato di un eccessivo carico di controlli fiscali sulle imprese che scoraggiano chi vuole fare impresa o chi già ha un'attività produttiva. La reazione della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia non può che essere un commento naturalmente positivo su queste parole di Tremonti. Ha detto Marcegaglia che ci siano troppi enti che controllano le imprese è un dato assodato. Tremonti aveva parlato di le cifre che aveva dato ieri il ministro. Sono queste: 1,5 milioni di controlli fiscali nel 2010, 300,000 controlli per quanto riguarda il lavoro, ma secondo Tremonti soprattutto sono troppi gli enti che controllano, manca il coordinamento. Il ministro ha parlato di un pacchetto semplificazione che dovrebbe arrivare entro maggio. E però la presidente di Confindustria Marcegaglia, dopo avere appunto ribadito un giudizio positivo su questa consapevolezza nuova che sembra esserci nel governo, o comunque ribadita a proposito di questi controlli alle imprese, la presidente di Confindustria Marcegaglia a questo punto però chiede che adesso alle dichiarazioni insomma comincino a seguire i fatti, e questo sarà anche un argomento di approfondimento più avanti in Focus Economia. Sempre come coda di questo tema aggiungiamo una dichiarazione dell'ex ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola. Premettiamo che avremmo preferito sentirla questa dichiarazione sull'abolizione delle province quando era ministro, perché sarebbe stata più impegnativa, e non adesso che è comunque pur sempre un esponente autorevole della maggioranza di governo. Scajola dice: nel nostro programma elettorale figurava l'abolizione delle province, che è stata sino ad ora accantonata. Alcuni sostengono che i risparmi sarebbero limitati, ma siamo sicuri che sia così? Dice Scajola. Secondo Scajola le cifre che ballano sono risparmi che si potrebbero ottenere con l'abolizione delle province: 2 miliardi di euro l'anno. Insomma, di cifre se ne sono fatte parecchie, di fatti pochi per ora. Queste erano le principali notizie economico-finanziarie della giornata, e alcuni temi li abbiamo annunciati, li approfondiremo più avanti. Adesso invece iniziamo a occuparci di quella che è sicuramente la notizia, anche se si parla di un'accelerazione di un processo lungo atteso tra Fiat e Chrysler, ma insomma parliamo proprio di questo, parliamo di Fiat. Partiamo ricordando quelle che sono le notizie. Allora, Fiat ha raggiunto un accordo, l'ha detto Marchionne, che non so se sta ancora parlando, poco fa parlava in un conference call, quindi sono anche notizie fresche degli ultimi minuti proprio. Ma insomma, stamattina Marchionne ha detto: Fiat ha raggiunto un accordo col gruppo Chrysler e con gli altri soci della casa di Detroit per acquistare un ulteriore 16%, pagando, e questa volta Fiat paga, 1,26 miliardi di dollari, ossia poco meno di 900 milioni di euro. La quota di Chrysler in mano al Lingotto sale così al 46%. Ci sono già sul tappeto tutte le premesse per arrivare al 51%, come cercheremo di capire tra poco. Aggiungiamo a questo quadro anche la presentazione dei dati economici. Fiat Industrial li ha presentati ieri, li ricordiamo brevemente. Invece Fiat, la restante parte del gruppo che si occupa di auto oggi. Cominciamo con Fiat Industrial, la società che raggruppa i camion, i veicoli, ma anche le macchine CNH e i motori powertrain. L'utile ammonta a 114 milioni di euro, che si devono confrontare con un rosso che c'era stato nel precedente trimestre dell'anno scorso, nello stesso trimestre dell'anno scorso, un rosso di 34 milioni di euro, quindi è un dato molto positivo. I profitti sono tuttavia inferiori ai 125 milioni che erano attesi dagli analisti. E poi sulle ripercussioni di borsa vedremo più avanti. Per quanto riguarda invece Fiat SPA, la parte auto del gruppo, l'utile è salito da 13 a 37 milioni, comunque al di sotto, anche in questo caso, delle attese che erano per 75 milioni di euro. Ricavi in aumento da 8,6 a 9,2 miliardi e indebitamento sceso più delle previsioni a 489 milioni. Invece continuano a non andare bene le vendite, perché lo scorso marzo il gruppo ha immatricolato, questo lo ricordiamo a beneficio degli ascoltatori, il 20% di auto in meno in Europa rispetto all'anno prima. In controtendenza il marchio Alfa, che invece ha registrato un più 65%. Salutiamo il primo dei nostri ospiti, Andrea Malan, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. E allora, Andrea, abbiamo fatto un po' il quadro delle notizie, però le notizie vanno spiegate. Abbiamo detto, insomma, lo sappiamo, ogni volta che c'è un passo in più in questa strada, la strada del matrimonio tra Fiat e Chrysler, dobbiamo fare anche un po' di riepilogo, però facciamolo a beneficio di tutti. Abbiamo detto, Fiat sale al 46, però questa volta c'è anche un investimento diretto del Lingotto. Che succede? Questo era previsto dal contratto firmato nel 2009, Fiat ha avuto, ricordiamolo, un 30% già finora in cambio del trasferimento di tecnologie e di competenze manageriali alla casa americana, investirà la somma che hai citato prima, poco meno di 900 milioni di euro, per arrivare al 46%, e dentro la fine dell'anno dovrebbe ottenere il 5% che le manca per arrivare al 51%, raggiungendo la terza delle condizioni previste dal contratto sempre di 2 anni fa, e cioè con il lancio sul mercato americano di un'auto Chrysler a basso consumo basata su tecnologia Fiat, in particolare su un motore a benzina a tecnologia Fiat. Quindi entro la fine di quest'anno Fiat avrà il 51% di Chrysler, avrà quindi il controllo. Questo è il primo, diciamo, sì. L'ultimo è il primo passo al tempo stesso, l'ultimo di questo procedimento appunto complesso finanziario, e il primo di una storia poi comune che porterà in tempi probabilmente non lunghissimi successivamente anche alla fusione. Marchionne lo ha ribadito oggi parlando con gli analisti, non ha senso avere due società separate, quindi lui pensa a una società unica, e ricordiamo che quando un paio di mesi fa aveva ipotizzato che la sede di tale società potesse essere negli Stati Uniti, ovviamente aveva destato parecchie polemiche qua in Italia, sia a livello sindacale che politico. Ecco, su questo, proprio sugli aspetti anche strategici di questa fusione, sulle paure in Italia soprattutto, ripetute anche oggi dal sindaco di Torino Chiamparino e dal segretario della CGIL Camusso, che Fiat si disimpegni un po', insomma, e la strada verso l'America abbia dei risvolti così, diciamo, non positivi per la produzione italiana. Questo ne parliamo tra un attimo, Andrea. Intanto saluto anche Mario Platero da New York. Buon pomeriggio, Mario. Sì, buon pomeriggio, eccoci. Perché vogliamo sentire quali sono anche le reazioni, gli echi in America di questa notizia. Noi, insomma, gli diamo grande enfasi perché per noi parliamo di quella che è stata ed è forse ancora la principale impresa italiana, Mario. Invece in America questa notizia, quali sono le reazioni, i commenti, qual è il contesto? Direi sicuramente in America la notizia è stata ripresa, ovviamente non con l'interesse che abbiamo noi, perché per noi devo dire è davvero molto importante fare questo passo, un investimento diretto in questo paese che va a completare quello che è il ruolo della Fiat in America, che ricordiamolo ha anche altre attività industriali con la New Holland e dunque è attività finanziarie poi attraverso la proprietà, attraverso la famiglia e dunque questo è molto importante perché noi come sistema paese Italia abbiamo una presenza molto bassa dal punto di vista dell'investimento diretto negli Stati Uniti. Germania, Francia, Gran Bretagna hanno investimenti molto più importanti, occupano centinaia di migliaia di persone, questo si traduce in un peso paese ben diverso dal nostro dove invece ci affidiamo soprattutto alla moda, ci affidiamo a piccoli investimenti, sicuramente non dell'importanza di quello che sta facendo la Fiat. Ecco, detto questo, dal punto di vista americano si tratta di piccola cosa, vi do un'idea delle proporzioni, sono usciti ieri i profitti della Apple e si è saputo che la Apple ha in contanti come riserve di cui non sa bene che fare ma li tiene lì 60 miliardi di dollari. Ecco, se hanno bisogno di qualche idea gliela diamo. Ecco, qui stiamo parlando di un investimento comunque molto importante per noi ma dal punto di vista del contesto americano relativamente contenuto. Quindi il Wall Street Journal affronta la notizia ma non gli dà naturalmente il rilievo che abbiamo dato noi. Sbaglia, secondo me, sbaglia perché questa notizia non è soltanto una notizia finanziaria e industriale, è anche una notizia politica. Ci sono dei tempi attorno a questa strategia finanziaria che vanno a coincidere con la fine dell'anno, come diceva prima Andrea Malan, cioè con questa nuova vettura che devono presentare col passaggio al 51%. Calcolato più o meno verso la fine dell'anno. E perché è importante? Beh, perché il grande regista politico di questa operazione è stato Barack Obama e quindi a gennaio, quando saremo nel pieno della campagna elettorale, ricordiamolo, l'anno prossimo, nel 2012, si torna a giocare, a mettere in gioco la Casa Bianca e dunque la presidenza americana, ecco, in quel momento Barack Obama potrà rivendicare di aver comunque fatto un'operazione che è andata a buon fine. Benissimo Mario, tra poco con te voglio tornare anche su un altro aspetto, perché insomma parliamo giustamente, come sottolinei tu, di un importante investimento dell'Italia all'estero, di una crescita del peso dell'Italia sui mercati internazionali, anche grazie a investimenti come questi, però poi tutti ci domandiamo dove starà il centro decisionale, chi comanderà in questa fusione. Andrea Malan, prima di arrivare a questo, ma comunque sotto traccia il tema è sempre questo, parliamo delle conseguenze o delle mancate conseguenze, insomma, in Italia, per gli stabilimenti italiani di quello che sta accadendo e che accadrà per quanto riguarda la crescita di Fiat in Chrysler. Aveva ragione chi diceva che insomma le condizioni poste da Marchionne per investire in Italia, per rimanere con gli investimenti in Italia, per potenziare gli stabilimenti, insomma quello che poi ha sollevato anche la nota vicenda di scontro anche con una parte dei sindacati, erano condizioni forse non così determinanti, perché in fondo la Fiat guarda sempre di più verso l'America. Era vera questa posizione alla luce di questo 51 quasi raggiunto o no? Ma diciamo che le due integrazioni, quella finanziaria e quella industriale, vanno avanti in parallelo. Io direi che sono due strade parallele, quindi non necessariamente coincidenti. Dal punto di vista industriale l'integrazione è in corso fin da quando Fiat è entrata in Chrysler, c'è un piano che prevede uno scambio di tecnologie, uno scambio di responsabilità sulle gamme prodotto con Fiat che si occupa delle auto medio-piccole e Chrysler di quelle medio-grandi, con i differenti marchi che vengono integrati, le auto Chrysler distribuite qua in Europa, i programmi per vendere prima la 500, poi le Alfa Romeo negli Stati Uniti, quindi c'è tutto un discorso industriale e commerciale che ha una sua logica e che procede e che è in teoria indipendente da un'eventuale fusione, nel senso che questo programma potrebbe tranquillamente andare avanti anche con una Fiat che rimanesse al 51% di Chrysler senza arrivare ad una fusione. Peraltro quello che è in gioco invece dal punto di vista dell'eventuale trasferimento, come hai detto tu, della testa pensante del quartier generale del gruppo, non riguarderebbe ovviamente l'intera attività in Italia, cioè un conto è il trasferimento del quartier generale, un conto è il trasferimento degli stabilimenti, e anche qua le polemiche di questi giorni con le accuse di Sergio Marchionne ai sindacati e viceversa sono relative a condizioni e relazioni industriali in Italia che non valgono solo per Fiat, contro le quali Marchionne si è espresso più volte da un po' di tempo a questa parte, ma che appunto non necessariamente si sovrappongono alla decisione sul quartier generale. Diciamo che sono tre piani separati. Posso ricordare che, per citare un caso precedente che tutti forse ricordano, quando sì. Daimler comprò la Chrysler poco più di 10 anni fa, ci fu la fusione, le due società rimasero quotate sia in Germania che negli Stati Uniti, la singola società rimase quotata nei due posti, il quartier generale in quel caso fu mantenuto in Germania, è difficile immaginare un'azienda tedesca di quel tipo, di quelle dimensioni, trasferirsi, per quanto anche allora potessero valere i motivi per esempio di convenienza fiscale che Sergio Marchionne ha citato di recente. Peraltro i tedeschi non furono assolutamente in grado, come sappiamo, di far funzionare quella fusione, e quindi dopo una decina d'anni furono costretti a gettare la spugna. Quindi diciamo che il successo dell'operazione dipenderà probabilmente più dalla efficacia dell'integrazione industriale e commerciale che non da come verrà gestita dalle tecniche anche finanziarie. Andrea, a questo proposito tu accennavi, insomma è lì che deve venire la produzione di questo famoso veicolo, famoso perché ancora mi pare che non ci siano grosse notizie, o forse sì, smentiscimi, questo veicolo a tecnologia Fiat per un'auto di risparmio, insomma, anche se magari le cifre in Europa possono non essere così significative, parlo di risparmio e di rispetto dell'ambiente. Di che vettura si parla e a che punto è questa produzione, che dovrebbe essere, come ricordavi tu, l'ultimo step per garantire poi l'ultimo passaggio di questa fusione? Sarà una vettura con marchio Dodge, di segmento, è difficile definire il segmento perché sono diversi tra il mercato americano e quello europeo, comunque è una vettura che probabilmente qui in Europa sarebbe un segmento C, costruita sulla piattaforma appunto della Giulietta italiana, modificata e trasportata poi e rielaborata negli Stati Uniti, e in grado di competere con quelli che negli Stati Uniti sono le auto dominanti in quel settore lì, che sono le Toyota, le Honda. GM e Ford hanno recuperato un po' in questi ultimi anni, ma tutti i costruttori americani sappiamo che nell'ultimo decennio hanno puntato molto sui SUV, sulle auto grosse, mentre le berline medio-piccole sono state un po' trascurate. Adesso che tra l'altro con l'aumento dei prezzi del petrolio la benzina sta tornando a costare anche negli Stati Uniti 4 sì, dollari al gallone, che dovrebbe rivelarsi, sì. È poco per noi, ma tanto per loro, è un'arma decisiva per Chrysler poter contare quest'auto, che è in linea con i tempi, dovrebbe essere presentata verso la fine di quest'anno, sicuramente sarà al salone di Detroit del gennaio 2012. Il momento in cui Fiat salirà al 51% sarà quello in cui l'auto verrà effettivamente omologata per il mercato americano. E va bene, allora lì staremo a vedere. Mario Platero, torniamo per un attimo sul versante oltreoceano di questa vicenda, perché poi la domanda è la stessa, anche se vogliamo, diciamo così, aggirare la domanda su quale sarà la sede, perché come ricordava Malan è più sull'integrazione industriale tra i due gruppi che non sul piano strettamente finanziario che si gioca questa vicenda, però insomma la domanda ce la facciamo tutte, vista da lì la vicenda, chi comanda, chi comanderà in questo gruppo multinazionale che, come diceva anche oggi il presidente Fiat John Elkann, insomma si presenta come uno dei principali gruppi multinazionali al mondo, almeno nel settore. Mario, insomma, quali sono i paletti visti dall'America di questa dal punto di vista strategico? Dunque, sicuramente comanderà Marchionne, quindi la costante è la costante Marchionne. Il problema credo non si pone nel breve medio termine, perché è sicuro che Sergio Marchionne, sia che abbia i suoi quartieri generali qui o lì, sarà comunque alla guida di questo gruppo, resta comunque un italiano profondamente legato alla famiglia che controlla la Fiat e che dunque avrà una posizione più diluita in Chrysler, ma sarà comunque un azionista pesante, tra virgolette, in Chrysler. Io credo che il problema si ponga più nel medio-lungo termine, quando si tratterà di riorganizzare il gruppo, se davvero ci sarà un quartiere generale qui negli Stati Uniti, e dunque che tipo di coinvolgimento di management italiano potrà esserci in termini di gestione e di controllo delle operazioni. Ecco, su questo punto direi è molto importante sottolineare che Marchionne ha portato con sé da Torino una squadra di ingegneri e di managers di altissimo livello che lavorano con lui alla Chrysler e che dunque esercitano un ruolo e una influenza sul piano manageriale non indifferente. Credo che dobbiamo sprovincializzarci, uscire da quelli che sono, come tu dicevi, i paletti che tutti immaginiamo e pensare piuttosto al fatto di avere un quartiere generale qua, che credo, come diceva Andrea, sarà poi alla fine quello che succederà, come un'opportunità semmai per poter avere manager italiani che vengono qui, che si preparano, che si arricchiscono e che possono anche tornare indietro nel nostro paese e portare un arricchimento manageriale che sicuramente in America è molto più interessante e importante di quello che potrebbero fare restando magari soltanto in Italia. Ecco, questo è soltanto uno degli aspetti. Ci sono poi ovviamente altri aspetti, come diceva Andrea, io non credo che ci sia nelle carte una fine di Torino come centro, come uno dei grandi centri dell'auto europea. Ormai viviamo in un'economia globale, viviamo in un mondo multipolare 24 ore su 24 dove il bastone di comando si passa avanti e indietro, e semmai ci sarà forse una Torino molto più internazionalizzata e ci sarà un quartiere generale europeo o comunque europeo, africano, medio orientale, insomma per tutta quella parte dell'emisfero, che avrà comunque un'importanza straordinaria non solo dal punto di vista della produzione, che di nuovo secondo me alla fine resterà, ma anche proprio dal punto di vista del controllo. Quindi luci e ombre, però ci sono anche molte luci possibili in questo passaggio potenziale di quartiere generale. Grazie Mario Platero da New York, grazie anche ad Andrea Malan. Questo dunque lo scenario per quanto riguarda Fiat. Se volete scrivete 349-238-6666. E siamo giunti nel frattempo alle 17:34 minuti, facciamo una breve pausa, torniamo tra un attimo, facciamo uno sguardo sulle borse, vedremo anche il titolo Fiat dopo queste notizie, come si muove, naturalmente anche tutto il resto, gli altri approfondimenti, a tra poco, 349-238-6666. Diciassette e 39 minuti, ben ritrovati, gentili ascoltatori, eccoci qua, è il momento, prima di lanciare il prossimo approfondimento, di vedere la giornata di borsa. E allora cominciamo con un breve sguardo alle chiusure per quanto riguarda Piazza Affari. Siamo al più 1,43%, credo che sia il dato di chiusura o quasi. Per quanto riguarda invece Wall Street, Dow Jones più 0,26%, Nasdaq più 0,57%, non troppo mosse, insomma, in vista di un ponte pasquale, sicuramente anche le altre piazze europee. In questo momento Francoforte fa un più 0,6%, Parigi più 0,4%. Mi sembra che in calo ci sia soltanto Londra, meno 0,17%. Tra i titoli che vogliamo mettere oggi in evidenza a Piazza Affari, i titoli di listino principale, che come dicevamo chiude in positivo, c'è Fiat in grande spolvero, più 4,5%, Unicredit più 4,4%, in generale mi sembrano positivi i titoli del settore bancario, Intesa San Paolo più 4,2%, Banco Popolare più 3,7%, Pirelli più 2,4%, un'altra banca, Monte Paschi Siena più 2,39%, poi c'è anche Exor più 2,25%, Ubibanca più 2,11%, Mediobanca più 1,75%. Ci fermiamo qua con i titoli in positivo, in controtendenza c'è Fiat Industrial, forse perché sotto i target, insomma, i dati presentati ieri, meno 3,45%, Telecom meno 0,5%. 9%, Enel Green Power meno 0,5%. Livia Zancaner, buon pomeriggio. Buonasera. Buonasera, dell'agenzia di stampa Radiocor, come ogni sera in Focus Economia. Livia, cominciamo a dare uno sguardo ai titoli. Abbiamo visto Telecom in, quasi in coda al listino milanese. Le cose non vanno bene, mi sembra di capire, per in generale per i titoli delle TLC, è così? Sì, assolutamente sì. Infatti il settore TLC verso appunto il finale di seduta sta cedendo oltre il 2% in Europa. A preoccupare oggi è stato il profit warning, quindi l'allarme utili lanciato dall'olandese KPN, che sta perdendo oltre l'8% ad Amsterdam. Il gruppo ha infatti rivisto al ribasso le stime di margine operativo lordo per il 2011 a causa di un andamento debole delle attività proprio nel paese di riferimento, quindi nei Paesi Bassi, ha annunciato il taglio di 4.000-5.000 posti di lavoro nel periodo 2011-2015. Quindi di questo hanno risentito un po' tutti i titoli del settore. A Milano Telecom ha perso lo 0,9%, e per quanto riguarda la società italiana vi sono anche delle preoccupazioni riguardo all'andamento del business del mobile nel primo trimestre. Ricordiamo che Telecom approverà i conti il prossimo 5 maggio. E ok, per quanto riguarda invece, parliamo un attimo dei titoli del settore energetico, cosa c'è da dire per quanto riguarda l'Italia? Saipem è abbastanza positivo, adesso il titolo guadagna lo 0,53%, Snam più 0,24%, Saipem che ieri ha presentato i conti. Sì, infatti i conti sono stati apprezzati dal mercato, quindi il titolo ha chiuso in territorio positivo appunto all'indomani della trimestrale. I risultati sono stati giudicati buoni e in linea con le attese del mercato, che continua a ritenere il titolo interessante grazie soprattutto all'arrivo di notizie positive sulla raccolta ordini e sulla redditività, grazie alle stime di consensus che sono piuttosto prudenti e i multipli che vengono definiti accattivanti. Ricordiamo che la società ha chiuso il primo trimestre con un utile netto in crescita del 17% e ricavi in salita dell'11,9%. Diamo anche un attimo la quotazione dell'euro sul dollaro, che prima non avevamo ricordato: 1,4586 l'euro sul dollaro in questo momento. Perché? Perché parliamo dei titoli che sono in qualche modo sensibili al cambio. Autogrill viene segnalata adesso in leggero territorio positivo, ma insomma in una giornata positiva frena Autogrill, Livia. Infatti ricordiamo che Autogrill realizza circa la metà del proprio fatturato oltreoceano negli Stati Uniti, e quindi l'andamento del titolo è influenzato appunto dall'andamento del dollaro. Oggi il dollaro ha mostrato un andamento debole, quindi la società è stata appunto ha mostrato un andamento debole per quasi tutta la seduta. Appunto questa mattina il tasso di cambio euro dollaro è balzato sopra la soglia di 1,46 ai massimi dal dicembre 2009, poi è sceso durante la seduta, ma comunque l'euro rimane forte nei confronti del biglietto verde. Siamo lasciati sin qua il piatto forte di giornata: Fiat, una realtà bifronte. Fiat Industrial è il titolo peggiore, Fiat SPA invece è il migliore. Ne parliamo tra un attimo, prima però facciamo una pausa per le informazioni per il traffico. E allora riprendiamo con il quadro della giornata di borsa e, come dicevamo, Livia Zancaner di Radiocor, parliamo di Fiat. Sì, allora come dicevi tu prima, i due titoli hanno mostrato un andamento contrastante, con Fiat in netto rialzo e Fiat Industrial invece in deciso ribasso. Allora il Fiat SPA, quindi che racchiude le attività auto, hanno beneficiato ancora dei conti pubblicati alla vigilia, conti che sono risultati oltre alle attese, ma soprattutto dall'accordo raggiunto con i soci di Chrysler per salire entro giugno al 46% del gruppo americano, sempre con l'obiettivo di arrivare al 51% entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda Fiat Industrial, oggi la società ha comunicato i conti che sono risultati in miglioramento, ma inferiore alle attese degli analisti e quindi del mercato. Per fare un esempio, la società ha mostrato nel primo trimestre dopo la separazione delle attività un utile della gestione ordinaria più che raddoppiato, 277 milioni di euro, però in realtà le previsioni del mercato si attestavano a 300 milioni. Stessa cosa per il debito, che è salito a 2,1 miliardi contro gli 1,94 miliardi previsti, quindi conti in crescita ma sostanzialmente inferiori alle attese. Quindi più che i conti in questo caso, mi sembra di capire, visto che in entrambi i casi ci sono elementi inferiori alle attese, però è proprio l'aspetto dell'annuncio di queste ore forse a dare slancio a Fiat. Bene, Livia, ancora le banche, perché c'è un rimbalzo evidente, Unicredit, Intesa, Banco Popolare sono tra i migliori titoli oggi del listino. Che succede? Sì, infatti dobbiamo ricordare che ieri le banche hanno registrato pesanti perdite, soprattutto dopo, a causa dell'annuncio da parte della BPM dell'aumento di capitale da 1,2 fino a 1,2 miliardi, quindi superiore a quanto previsto. Oggi le banche sono rimbalzate, sono andate bene sostanzialmente tutte, e per quanto riguarda in particolare il caso del Banco Popolare, che ieri aveva perso molto, oggi il titolo ha guadagnato il 3,7%. Alcuni analisti, tra cui Equita, sottolineano che in realtà non vi sono timori su altri aumenti di capitale. Ricordiamo che il Banco Popolare ha già effettuato un aumento di capitale, e un aumento di capitale è stato escluso anche di recente e nuovamente dal consigliere delegato dell'istituto, Pierfrancesco Saviotti. Ok, ancora una cosa, Livia, per quanto riguarda Pirelli, che adesso non vedo, la vedo, più 2,43%, ci sono anche in questo caso dichiarazioni che mettono le ali un po' al titolo, no? Sì, allora oggi si è tenuta l'assemblea dei soci, durante la quale il numero uno Marco Tronchetti Provera ha dichiarato che la crescita quest'anno sarà molto superiore alle aspettative del piano industriale, e ha ribadito che i ricavi dell'anno in corso cresceranno a oltre 5,55 miliardi e anche la redditività migliorerà rispetto al 2010. Riguardo ai dividendi, Tronchetti ha sottolineato che il payout sarà pari a circa il 40% sul totale del risultato netto consolidato. Quindi di queste dichiarazioni ha beneficiato il titolo. Siamo in chiusura, c'è anche un caso che riguarda Full Six. Di che si tratta, Livia? Ah sì, Full Six ha chiuso ancora oggi in netto rialzo, e facendo i conti dalla chiusura di lunedì 11 aprile il titolo è salito del 134% circa. Qui il mercato scommette su un maxi risarcimento in arrivo da VPP per quanto riguarda la causa, appunto, di Full Six contro VPP per condotte anticoncorrenziali. Infatti proprio lo scorso 12 aprile si è tenuta un'udienza in tribunale con il deposito di una perizia che darebbe infatti ragione a Full Six, e quindi il mercato sta scommettendo sull'arrivo di un maxi risarcimento per la società. Grazie Livia Zancaneri di Radio Coro, il Sole 24 Ore, come sempre, per l'approfondimento di borsa. E adesso invece parliamo di tutt'altro, ci spostiamo ai bordi, per non dire ai margini dell'Europa. Ai bordi, sia in senso fisico, perché parliamo della Grecia e un po' anche del Portogallo, e anche per quanto riguarda l'aspetto, naturalmente, soprattutto il bordo della tenuta economico-finanziaria di questi paesi, perché notizia di oggi per quanto riguarda la Grecia, che il governo sembra intenzionato a spingere sulle privatizzazioni per tenere a distanza lo spettro di una ristrutturazione del debito. È questa, quanto si apprende, la strategia su cui sembra puntare il governo di Atene per fronteggiare l'enorme debito che il ministro delle Finanze, Papa Costantino, ha definito assolutamente amministrabile, respingendo ancora una volta l'eventualità di una ristrutturazione, di cui però invece si continua a parlare, ristrutturazione che tra l'altro, e non solo, probabilmente ha messo di nuovo le ali ai rendimenti dei titoli di Stato in Grecia, perché continuano a salire vertiginosamente i rendimenti dei bond greci. E allora vediamo, l'interesse sul bond a 2 anni è schizzato stamani al record storico del 22,41%, mentre quello sui titoli a 10 anni è volato al 14,92%. La forbice, abbiamo detto, nei titoli di apertura tra il bond greco a 10 anni e il corrispettivo tedesco si è allargata a 1159 punti base. Ne parliamo con Vittorio D'Arold. Buonasera, buon pomeriggio. Buonasera a voi. Collega del Sole 24 Ore. Vittorio, questo è un po' lo stato dell'arte, è una situazione, lo stato dell'arte, insomma, è una situazione però che come sempre è sull'orlo di non si sa bene di che cosa. Si continua a pronunciare la parola ristrutturazione per il debito greco. Prima di parlare di questo, però, diamo un senso a queste notizie di oggi. Sì, dunque, allora, il debito greco è di 340 miliardi di euro. Quindi è quasi il 130% del PIL, una cosa abbastanza, diciamo, enorme. 70 di questi miliardi sono tutti interni, cioè sono in mano 48 miliardi alle banche greche, 22 miliardi ai fondi pensioni. Gli altri 130 circa sono in mano a creditori ufficiali, cioè alla BCE, al Fondo Monetario, a Stati.

tratta proprio di un aggiornamento, una notizia tra le non moltissime della giornata che è giunta nel frattempo ad inizio programma, riguarda la ex controllata della Tirrenia, la Toremar. Parliamo di, naturalmente, di compagnie nel ramo della navigazione, non mi veniva la parola. La notizia è questa: Delcomar, dell'armatore Franco Del Giudice, si è aggiudicata la Toremar, l'ex controllata appunto di Tirrenia della regione Toscana. L'ho reso noto poco fa un comunicato in cui lo stesso Del Giudice conferma che sono stati resi pubblici gli esiti della gara di privatizzazione. Ci sono anche dei dettagli tecnici sulla gara, ma questo naturalmente non ci interessa. Si chiude così la vicenda che riguarda la Toremar. Grosse altre notizie di giornata non ce ne sono, se non un po' di reazioni per quanto riguarda l'Italia. Di Fiat abbiamo già abbondantemente parlato. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni del ministro Tremonti di ieri, che ha parlato di un eccesso nel carico di controlli sulle imprese, 1,5 milioni nel 2010, controlli fiscali, però sulla politica economica del governo interviene oggi l'ex ministro allo sviluppo Claudio Scajola, che rilancia da una parte chiedendo più coraggio per lo sviluppo, incalzando quindi lo stesso Tremonti, dall'altro ritirando fuori l'abolizione delle province. Scajola dice: nel nostro programma elettorale figurava l'abolizione delle province, che è stata accantonata. Alcuni sostengono che i risparmi sarebbero limitati, ma siamo sicuri che sia così. Scajola parla di risparmi per 2 miliardi di euro l'anno dall'abolizione delle province, e abbiamo già detto ci sarebbe piaciuto sentirla questa dichiarazione quando Scajola era ministro, che avrebbe avuto naturalmente un impatto e sarebbe stato anche un impegno diverso. E poi, dicevamo, la Scajola incalza Tremonti: più coraggio per lo sviluppo, l'obiettivo del pareggio di bilancio è sicuramente importante, ma bisognerebbe riflettere sulla apparente rinuncia a procedere quest'anno e il prossimo sulla strada delle riforme economiche e strutturali. Insomma, Scajola non è il primo, tra l'altro in questo caso titolato in quanto ex ministro, a tirare fuori questo tema della necessità di fare delle riforme anche subito, anche adesso. E poi lo stesso Tremonti ha annunciato un pacchetto semplificazione per quanto riguarda i controlli sulle imprese che arriverà a maggio. Siamo però ancora alle dichiarazioni e agli annunci. Adesso però siamo pronti per parlare proprio di questo tema. E il tema è proprio questo, quello dei controlli fiscali e non solo sulle imprese, un eccesso di autorità regolamentatrici, un eccesso di controlli, di controllori, 1,5 milioni di controlli fiscali nel 2010, ha detto ieri Tremonti. Difficile da questo punto di vista, come dire, avere un'opinione diversa da quella del ministro. Basta dare un'occhiata per esempio all'elenco degli organismi che sono in campo. Marco Mobili sul Sole 24 Ore oggi ne conta 22, dall'Agenzia delle Entrate all'ARPA, all'ASL, i Carabinieri, i Comuni, il Corpo Forestale, la DIA, le Dogane, l'EMPALS, Equitalia, il Garante, la Guardia di Finanza, l'INAIL, l'INPS, la Marina Militare, il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Polizia di Stato, la Polizia Provinciale, le Province, le Regioni, i Vigili del Fuoco, tutte queste entità per controllare l'evasione, l'ambiente, il lavoro nero, la sicurezza sul lavoro, gli appalti, la previdenza, tutto quello che è agevolazioni e incentivi, e ci si mette anche la privacy. Adesso cercheremo anche di capire in che cosa consiste questo pacchetto semplificazione annunciato a maggio, perché insomma bisogna dirlo, il ministro Tremonti non è un neofita della poltrona che fu di Quintino Sella. Insomma, abbiamo contato che negli ultimi anni è stato per 8 degli ultimi 16 anni ministro dell'economia. Allora vorremmo proprio sapere anche come mai, se fino adesso non ci siamo riusciti, non c'è riuscito lui a semplificare davvero la vita delle imprese, come mai questo è successo e cosa ci può far rendere invece ottimisti sul futuro. Iniziamo a parlare di questo con un ospite che però ci parlerà anche di un altro tema, Claudio Di Albertis, presidente di Assoimpredil e dell'ANCE. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. L'Associazione delle Imprese Costruttrici di Milano, Lodi, Monza e Brianza, che assiste circa 8.000 imprese, di cui un migliaio sono associate. Il tema è questo, è quello dei controlli, e naturalmente penso che anche lei si allinei all'elenco di quelli che dicono giuste le parole di Tremonti. Adesso, come ha detto la Marcegaglia, però vogliamo che vengano fuori dei fatti. Prima di chiederle un commento su questo, però c'è una notizia di oggi e che riguarda un inasprimento che voi, manco a farla apposta in tema di regole, però qua parliamo di una cosa seria, rischio infiltrazioni mafiose in vista dell'Expo, e voi adesso varate, o come dire, date una stretta su un regolamento per contrastare proprio il rischio di infiltrazioni mafiose nei cantieri, che sappiamo nelle costruzioni sono sempre a rischio. Di che si tratta, Di Albertis? Guardi, il problema è questo, non tanto legato allo Expo, tanto legato alla recessione economica, alla recessione, alla crisi che il nostro settore vive. Le nostre imprese soffrono di problemi di liquidità finanziaria, hanno stazioni appaltante che pagano malissimo, le basti pensare che per legge un'impresa dovrebbe essere pagata in 2 mesi e mezzo, mentre dalle nostre parti viene pagata in 7 mesi e mezzo. Tutto questo rende per le imprese, cioè fa esistere un pericolo di usura, e l'usura è un veicolo che può innestare relazioni pericolose, e qui, da qui noi abbiamo cercato a questo punto di alzare delle barriere, da una parte per difendere la libertà di impresa e la concorrenza legale, e dall'altra per mettere al riparo un tessuto di imprese che noi crediamo sostanzialmente sano rispetto a queste infiltrazioni. Per cui da un lato abbiamo integrato il nostro codice etico, il nostro codice comportamento, anche con verifiche su tutte le imprese nostre associate e su quelle che intendono associarsi, non solo limitate al legale rappresentante, per esempio, ma tutti i soci e i direttori tecnici, ma dall'altro abbiamo messo in piedi anche delle azioni di controllo efficaci sui cantieri, sugli operai che entrano in cantieri, sui mezzi che entrano e escono in cantieri, anche dando trasparenza a tutta quella che è il percorso e la vita di un'impresa da quando conquista un appalto fino a quando lo conclude. Adesso facciamo una pausa per le informazioni sul traffico, poi Di Albertis le chiedo, come anticipato, un commento sulle parole di ieri del ministro Tremonti sull'eccesso di controlli sulle imprese. Traffico. E allora abbiamo in collegamento Claudio Di Albertis, presidente di Assoimpredil dell'ANCE, a cui, come già detto, vogliamo chiedere un commento su questo impegno del ministro Tremonti a varare un pacchetto semplificazione per la vita delle imprese, alla luce di questo che ormai tutti unanimemente valutano eccessivo carico di controlli sulle imprese italiane. Di Albertis. Che finalmente qualche cosa venga fatto, perché di questa semplificazione si parla da decenni, ma nella realtà la vita delle aziende è diventata via via sempre più complicata. Voi avete citato una ventina di enti deputati a questi controlli, ma all'interno di ciascun ente poi ne abbiamo 25.000 uffici. Accanto a questo c'è una produzione legislativa che ogni giorno inventa nuovi controlli, nuove carte. Se dovessi dirlo con uno slogan, la prima lezione su cui partire è una bella moratoria legislativa. Per 2 anni nessuno faccia più una norma, non faccia più niente, e cerchiamo di sfoltire quello che abbiamo. E da quasi 3 anni abbiamo anche un ministro per la semplificazione. Naturalmente i tempi di questi processi non sono tempi rapidi, e anche gli effetti probabilmente si vedono nel tempo, ma se lei dovesse definire il piano inclinato sul quale si muove l'Italia in questa, su questa direttiva, cioè della semplificazione, lei il piano inclinato lo vede in discesa o in salita? Guardi, qualche cosa il ministro Brunetta è riuscito sicuramente a fare. Devo dire che il piano inclinato, o meglio, io vedo su questi temi molte, molte difficoltà, anche perché alla fine anche sul versante imprenditoriale c'è chi prospera di queste difficoltà, e talvolta si crea degli steccati, degli spiccoli, dei problemi di recinto, per cui è complessivamente un problema culturale da superare, per cui la vedo una questione molto difficile da superare, ci sono fortissime resistenze, però è una battaglia che si può vincere. Grazie Claudio De Albertis. Vorrei rispondere a un ascoltatore che scrive al 349-238-6666, siete la radio degli evasori, perché parliamo di un eccesso di controlli fiscali, forse è questo che vuol dire l'ascoltatore, sulle imprese, ma naturalmente è troppo facile dire che non è il tema dell'evasione all'ordine del giorno, ma è il tema di una rete assurda di controlli che non portano nemmeno poi, come dimostrano i dati, sul nero in Italia, che è ancora tantissimo, sull'economia sommersa, che è quasi il 30% a seconda delle stime, non portano a nulla. Quindi un eccesso di controlli fiscali, almeno questa è la mia opinione, va quasi a braccetto con tutto quello che sostiene l'economia sommersa. Salutiamo anche, per continuare su questo argomento, un altro ospite, Renzo Rullani, economista della Venice International University. Buon pomeriggio, buonasera Rullani. Buonasera a tutti. Perché insomma, quando si parla di questi temi poi viene sempre da guardare, almeno a me, fuori dalla finestra, guardiamo un po' anche negli altri paesi. Quindi la domanda che io le vorrei fare è questa: cosa succede negli altri paesi per quanto riguarda queste entità di regolamentazione che poi portano ai controlli di tutti quei campi di cui che abbiamo parlato, insomma, dall'impatto ambientale al fisco, alla sicurezza, alle norme sul lavoro? Insomma, l'Italia in questa proliferazione eccessiva di controlli è isolata, oppure questo succede anche negli altri paesi? E poi, altra domanda, quanti di questi controlli potrebbero davvero essere eliminati senza effetti negativi sull'economia, Rullani? Guardi, io credo che il mondo moderno ovviamente richiede delle regolazioni, ma come tutti i dati dimostrano, nei confronti in Italia, come dire, li abbiamo in modo esasperato, ma credo che più che la quantità dei controlli, il numero dei controlli, no, che quantifica una differenza, conta un pochino capire la ragione di questa cosa, perché succede questo, perché ha ricordato lei, abbiamo un ministero per la semplificazione da 2 anni, il problema dei controlli, della semplificazione, del carico normativo, certo, è vecchissimo, è un problema che dichiareremo irrisolvibile quasi. Quindi Tremonti ha fatto benissimo a ricordarlo, perché è all'ordine del giorno, diciamo, ma dobbiamo capire bene la causa di questa cosa, altrimenti riusciremo solo a intaccare la superficie con i rimedi. E io credo che per capire la causa bisogna fare un po' il confronto con quello che succede nel traffico stradale, no? Perché anche lì la situazione è uguale, insomma, abbiamo un numero di vieti, regole, cartelli che poi negli altri paesi normalmente vengono rispettati e da noi no. Vengono, come dire, non trasgredite palesemente, insomma, quei pochi che proprio non seguono niente, ma nell'opinione pubblica non è grave, insomma, no, fare certe infrazioni piccole, diciamo, no? E questo qui perché nasce? Nasce perché in Italia noi abbiamo una storia, una cultura, anche un'economia che è un po' incompatibile con quella filosofia del mercato, che vede il mercato come una cosa impersonale, per cui tu fissi delle regole generali uguali per tutti e la gente le deve rispettare. In Italia noi abbiamo un paese in cui la personalizzazione è molto spinta, quindi ognuno si sente diverso da ogni altro, e la localizzazione è molto differenziata, ogni regione ha una sua storia. E quindi cosa succede? Che queste regole generali vengono interpretate, diciamo così, no? In parte in modo giustificato, perché sono regole troppo lontane dalla vita della gente, dai problemi pratici, quindi diventano vessatorie, diciamo. E in parte perché poi lì si inseriscono i furbi, quelli che in qualche modo si cominciano a interpretare e poi fanno come gli pare. Pensi solo a questo: tutte le regole industriali sono pensate quasi sempre, insomma, in funzione della grande impresa, perché è l'impresa moderna, è l'impresa più impersonale, appunto, no? Ma noi abbiamo un esercito di piccolissime imprese. E queste piccolissime imprese, tante volte, questi adempimenti, non riescono proprio a seguirli, tant'è che le delegano all'esterno. Certo, diventano costi e poi diventano anche elementi che frenano e scoraggiano chi vuole mettersi in proprio. Non come un modo di ordinare il mondo, ma come proprio un adempimento che devi fare obbligatoriamente, che non serve a niente, eccetera. No? Ecco che poi quindi si crea una cultura che, come possiamo dire, la controparte tende a esasperare il controllo perché sa che non viene rispettato. E chi lo subisce tende a viverlo in modo negativo e quindi si ribella. E questa dialettica, secondo me, va tagliata alla radice, Io credo che in un sistema come il nostro, diciamo, il rimedio sia l'auto-organizzazione, cioè il nostro è un sistema in cui le cose che nascono dal basso, l'ordine si fa dal basso, no? I distretti industriali nascono dal basso, l'organizzazione del territorio nasce dal fatto che la gente si conosce, e allora anche questo rispetto delle regole bisogna in qualche modo portare la gente a convincere partendo dal basso. Per esempio, faccio degli esempi, no? La regolazione per esempio delle società cooperative, no? È fatta in base al fatto che le regole vengono, come dire, garantite da degli organismi che le imprese cooperative stesse associate mettono in piedi, e quindi l'organismo intermedio tra lo Stato garantisce che le cooperative associate sono qui, e si può rendere credibile questa cosa togliendo, cioè lei dice, una sorta di responsabilizzazione collettiva. Ecco, collettiva, che questo permette, come posso dire, di fare delle regole adeguate al corpo che va regolato, e di prendersi soprattutto una responsabilità, no? Perché sì. Per esempio adesso quando il governo ha varato la legge sulle reti, no? Le reti d'impresa, sì. Ha stabilito che queste reti vanno controllate nel loro svolgimento per vedere che corrispondono a requisiti di legge, da una forma di asseverazione, cioè di certificazione, insomma, che rispondono ai requisiti richiesti, no? Ma questa viene demandata alle associazioni imprenditoriali, non c'è un ministero che dall'esterno va a vedere se quelle reti sono vere reti o reti finte. Ecco. Bisogna sviluppare questa parte qui, che responsabilizza i soggetti. Quindi anche una sorta di cultura, lei la mette quasi anche sul piano, mi perdoni, antropologico, cioè proprio anche di un atteggiamento connaturato in qualche modo a noi italiani, ma questo è un altro, è un tema naturalmente che c'è, però svilupparlo ci porterebbe forse lontano. Però è chiaro quello che lei dice, però io faccio di mestiere il giornalista e le voglio fare una domanda, perché ho ricordato in apertura, insomma, il ministro Tremonti, che negli ultimi anni non è stato altrove, insomma, è stato ed è ministro dell'economia, quindi mi sembra quasi che la sua dichiarazione sia un po' come alzare bandiera bianca, perché lo dico come provocazione, cioè se in tutti questi anni non si è riusciti a risolvere questo problema che tutti dicono è prioritario, e lo dice anche il ministro e quindi lo ribadisce, evidentemente c'è qualcosa che non va. A lei chiedo invece di dare un giudizio su quello che è stato fatto di recente su questo, in attesa di questo pacchetto semplificazione di cui Tremonti parla, potrebbe essere presentato a maggio, però il tema è in agenda del governo che è in carica da 3 anni. Abbiamo un ministro per la semplificazione, come ricordava anche lei, cosa è stato già fatto, che pagella dà lei su questo al governo? Si cominciano a mettere a fuoco alcuni elementi di questa cosa. In termini di economia, uno degli elementi principali che può nascere questa cosa è il riconoscimento di quella orientamento che nasce dall'Europa, che si chiama Small Business Act, che ha come base, no, l'idea che prima di tutto pensa alla piccola impresa. Quando fai una normativa, chi hai in mente come soggetto che dovrebbe avere? Ecco, l'Europa ci dice, e noi lo stiamo recependo questo, quindi anche il nostro governo ci dice, di fare una specie di test, di stress test per la piccola impresa. Questo già eliminerebbe grandissime difficoltà, perché sostanzialmente dovrebbero essere normative adatte ai soggetti a cui si accade. La seconda cosa che... Le chiedo di chiudere in meno di un minuto, perché siamo davvero in chiusura. La seconda cosa che si sta facendo... però anche questo è insufficiente, è ridurre la frammentazione, cioè qui diciamo tutte le varie categorie chiedono delle normative in deroga, no? Delle situazioni eccezionali, che ci sono naturalmente, però siccome le categorie sono 46 in Italia, alla fine viene fuori 46 eccezioni, e quindi la normativa diventa complessissima. Lei vede la denuncia dei redditi, è diventata ormai un volume in 3 capitoli, insomma, no? Per tutte le normative, le eccezioni, le sottocategorie. Allora unifichiamo le categorie, queste categorie che ciascuna delle quali fa lobby per conto suo, è un fatto del passato. Ad esempio alcune categorie si sono unificate adesso, no? Cercano di convergere, e questo è un fenomeno positivo, perché poi vuol dire che la legge verrà cambiata ma non frammentata come adesso. Va bene, fermiamoci su queste due riflessioni positive, su questi due spunti positivi di ottimismo per il futuro. Grazie Enzo Rullani, economista da Venice International University. Un ringraziamento anche in redazione a Barbara Bianchi e a Mauro Del Corno. E naturalmente il programma torna domani dopo le GR delle 17, Focus Economia. Adesso arriva la Zanzara con Giuseppe Cruciani. Buona serata. Radio 24. La passione si sente.